Buonasera cari radioascoltatori e benvenuti ad una nuova puntata di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento come sempre ogni giovedì sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Un saluto in studio da Annalisa e in regia Roberto Giava e dovrebbe esserci in collegamento dall'AIA Alessandra. Questa sera parleremo di cambiamento climatico e di energia, parleremo in modo particolare delle iniziative dell'Unione Europea a riguardo e lo faremo con l'onorevole Monica Frassoni, che è copresidente del gruppo dei Verdi Alleanza Libera Europea al Parlamento Europeo. Buonasera onorevole Frassoni. Buonasera. Grazie per essere qui con noi è in studio. È un vero piacere. La ringraziamo, lo faremo con appunto l'ingegnere Paolo Gaio, esperto di energia nucleare, parleremo molto di nucleare in seguito. Cari radioascoltatori, stavo introducendo appunto l'onorevole Monica Frassoni, stavo dicendo che è copresidente del gruppo dei Verdi, Alleanza Libera Europea, al Parlamento Europeo. L'onorevole Frassoni è stata eletta per la prima volta nel 1999 come membro del gruppo dei Verdi in Belgio, corretto? È stata poi rieletta nel 2004 come parte del gruppo dei Verdi italiani. Nel Parlamento europeo è membro della Commissione Affari Legali e membro della Conferenza dei Presidenti. Presento il terzo ospite della serata, un altro amico di Giro di Boa, Enrico Meirhofer, che è corrispondente qui a Bruxelles per la radio australiana SBS. Ciao Enrico. Buonasera a tutti. Benvenuto nuovamente a Giro di Boa, grazie per essere qui con noi. Il tema della serata che è appunto cambiamento climatico, energia, Unione Europea, che cosa sta facendo l'Unione Europea a riguardo e appunto parleremo del piano, del piano UE 2020, che cos'è ridurre le emissioni di anidride carbonica in Europa almeno del 20% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2020. Per raggiungere questi obiettivi la Commissione europea ha presentato nel gennaio 2008 il cosiddetto pacchetto su cambiamento climatico ed energia che contiene tre proposte di direttive che l'attuale presidenza francese spera di vedere approvate entro la sua fine che è appunto il dicembre 2008. Queste direttive sono la direttiva sulla revisione del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione, l'Emission Trading Scheme, c'è una seconda direttiva sulla ripartizione degli sforzi da intraprendere per adempiere all'impegno comunitario a ridurre unilateralmente le emissioni di gas serra in settori che non rientrano in questo sistema comunitario di scambio sulle quote di emissioni come i trasporti, l'edilizia, i piccoli impianti industriali e c'è una direttiva relativa alla disciplina giuridica della cattura e dello stoccaggio del carbonio e c'è una direttiva sull'obiettivo del 20% per quanto riguarda le energie rinnovabili. Sostanzialmente quindi l'Unione Europea dovrebbe derivare entro il 2020 il 20% del proprio fabbisogno energetico da fonti rinnovabili. E come accennavamo nell'introduzione di questa puntata, ne parleremo con i nostri ospiti, direi di cominciare dall'onorevole Monica Frassoni, come si diceva in apertura, co-presidente del gruppo dei Verdi al Parlamento europeo. Le vorrei chiedere di spiegare in modo semplice, cercare di fare capire meglio ai nostri radioascoltatori che cosa include questo pacchetto cambiamento climatico ed energia. Il pacchetto energia-clima ha come obiettivo fondamentale quello di riuscire a fare presentare l'Unione Europea nei negoziati che si apriranno nel dicembre del 2009 a Copenaghen per il periodo del cosiddetto dopo Kyoto con le carte in regola. Sostanzialmente questo pacchetto descrive una serie di misure che devono essere prese dal 2012 al 2020, cioè in quel periodo che corrisponde al dopo Kyoto. Kyoto, come voi sapete, è stato sottoscritto nel 1997 è entrato in vigore molto più tardi e dovrebbe esaurire, diciamo così, la sua azione dal punto di vista della riduzione delle emissioni per il 2012. Quindi adesso siamo in piena discussione per il cosiddetto dopo Kyoto, che ha come obiettivo appunto quello di portare dentro la battaglia sui cambiamenti climatici anche coloro che ancora non ci sono, quindi non soltanto gli Stati Uniti, ma anche quelli che oggi sono, non solamente oggi, ma soprattutto in prospettiva, le più grandi potenze dal punto di vista delle emissioni di CO2, che sono la Cina, l'India e questi altri paesi. Quindi il primo e fondamentale obiettivo di questo pacchetto è quello di continuare il lavoro intrapreso con la sottoscrizione del trattato della Convenzione di Kyoto, e quindi dal 2012 al 2020. Per fare questo noi dobbiamo arrivare ad un accordo prima delle prossime scadenze elettorali, perché se non finiamo prima bisognerà ricominciare tutto da capo. Da qui la fretta di concludere il tutto entro il dicembre di quest'anno, sotto presidenza francese. Dicevi tu, Annalisa, che ci sono una serie di direttive, che sono quattro, e queste quattro direttive hanno ognuno una vita, diciamo così, indipendente, ma sono anche viste come parte di uno stesso pacchetto. E c'è un quinto elemento che mi sembra interessante e importante sottolineare, che riguarda le automobili, che anche quello è stato messo in un modo un po' abusivo, diciamo così, dentro questo pacchetto, dentro questo negoziato. Si tratta sostanzialmente di definire quali devono essere gli obiettivi di riduzione di CO2 anche per la flotta delle automobili dei prossimi anni, cioè bisogna arrivare all'obiettivo del 120 grammi per chilometro di CO2, 120 grammi di CO2 per chilometro per la media, diciamo così, delle varie ditte automobilistiche. Lo menziono questo fatto perché nella battaglia che si è sviluppata intorno a sapere se questo pacchetto potrà essere applicato o no, il tema di che cosa facciamo con le automobili e con i trasporti in generale ha evidentemente un'importanza veramente grande, visto che negli ultimi anni le emissioni di automobili sono aumentate veramente in modo incredibile, sicuramente molto ma molto di più in percentuale rispetto al settore industriale, che comunque ha cominciato a lavorare per la riduzione delle emissioni, e quindi è importante anche quelle, sono anche quelle importanti da mettere dentro. Detto questo, in quattro parole veramente molto rapidamente, la revisione della direttiva sullo scambio di emissioni ha come obiettivo quello di continuare uno schema che funziona già, migliorandolo su due temi. Uno, mettendo in piedi un sistema europeo di piano per la riduzione delle emissioni, quindi niente più piani nazionali con tutte le industrie che si arrabattavano per ridurre al massimo i loro obblighi, ma un piano europeo. E in secondo luogo, obiettivo... Volevi dirmi qualcosa? Accennava quindi a questo sistema di scambio, quindi a un sistema in cui i vari settori industriali possono comprare e vendere, se non sbaglio, permessi per inquinare. Esatto. Questa è la base di funzionamento. Sì, questa è la base di funzionamento, che appunto sarà basata su uno schema di livello europeo e non più su una base nazionale, nella quale ogni settore doveva andare a negoziare col suo Stato, il quale poi doveva venire a livello europeo a litigare, diciamo così, per farsi dare un sistema di una quota di emissioni che fosse diciamo così più o meno sostenibile. Il secondo elemento, che è veramente importante, è quello che queste quote non sono più gratis, nel senso che bisognerà metterle all'asta, e il fatto di metterle all'asta le renderà da un certo punto di vista più costose evidentemente per le aziende, ma avrà un effetto più deterrente al momento di doverle poi mettere sul mercato. E questo è un elemento importante, perché i due fattori che hanno limitato di molto l'efficacia del sistema, diciamo così, Kyoto, quello che è in azione adesso, è il fatto che le quote fossero gratis e che i piani di allocazione delle emissioni fossero eccessivi. E quindi, siccome io ho troppe emissioni che posso utilizzare, è evidente che non sarò per niente portato a ridurle. E allora questo è un sistema che ha funzionato così, e sulla base di questo la Commissione ha fatto delle proposte che, devo dire, nelle loro grandi linee sono state più o meno accettate. Parliamo poi brevissimamente sul tema del effort sharing, cioè la divisione dei compiti dei vari settori che non fanno parte di questo sistema dello scambio di emissioni. soluzioni, e qui è dove la battaglia è più dura, dove intorno a questo che anche in Italia si è sviluppato un dibattito complicato e basato su dati, diciamo così per essere gentili, manipolati, in sostanza l'Italia è riuscita ad ottenere un livello, un obbligo di riduzione di emissioni in questi settori abbastanza, diciamo così, sostenibile rispetto ad altri, perché attraverso un sistema complicato che il tanto vituperato governo Prodi ha negoziato, in realtà le riduzioni che deve fare sono minori di quelle che aveva si era impegnato a fare nel periodo di Kyoto. Senza perderci in tanti dettagli, se noi da qui al 2012 avremmo dovuto ridurre del 6,5 le nostre emissioni, in realtà con i nuovi obblighi li dobbiamo ridurre entro il 2020 del 5% rispetto al 1990, e quindi si tratta di una specie di sconto dell'1,5%, che non è poco di questi tempi. Altra questione importantissima per noi, poi forse posso fermarmi perché insomma sulla questione del cattura di carbonio è un tema forse meno fondamentale per noi, è quella delle energie rinnovabili. Anche qui grande battaglia in Italia su un tema fondamentale, che è quello del potenziale. La Commissione ha fatto un calcolo per cui ha detto, per raggiungere l'obiettivo generale globale per dei 27 di un aumento del 20% come obiettivo di consumo di energie rinnovabili entro il 2020, l'Italia deve arrivare al circa il 17%, e per molti dei settori industriali tradizionali il governo eccetera eccetera dice no, questo è impossibile, non ce la faremo mai, è un obiettivo che è troppo costoso, e anche su questo si è sviluppata una fortissima polemica. Questo è quello che in estrema sintesi è il pacchetto energia e i problemi che intorno a questo si sono sviluppati. Prima di approfondire quello che faremo tra un attimo, il discorso sulle energie rinnovabili, onorevole, le vorrei chiedere come l'Unione Europea può comunque rispondere ai timori di alcuni settori industriali per quanto riguarda la cosiddetta delocalizzazione, cioè quindi il timore che alcuni settori industriali possano spostarsi al di fuori dell'Unione Europea in paesi dove non sono in vigore leggi a tutela dell'ambiente comparabili rispetto all'Unione Europea. Quindi sostanzialmente il timore che alcuni settori industriali europei possano perdere competitività rispetto a industrie di paesi terzi. Per esempio il governo Berlusconi ha dichiarato le nostre imprese al momento non sono assolutamente nella posizione di assorbire i costi dei regolamenti che sono stati proposti, quindi c'è comunque un timore che la nostra industria non riesca ad assorbire questi costi e venga penalizzata. Tre risposte su questo. La prima è che noi siamo più indietro rispetto ad altri, anche rispetto a Kyoto, nel senso che a differenza di Germania e Spagna in particolare non abbiamo investito un bel niente, e quindi è chiaro che siamo più indietro rispetto in particolare al tema dell'efficienza energetica, che è il vero grande quantiere per un paese come l'Italia, e anche rispetto all'utilizzo e agli investimenti nelle rinnovabili. Rinnovabili che non devono essere però viste come una specie di panacea valide su tutti i fronti, perché è chiaro che è inutile investire centinaia di migliaia di euro in eolico quando non c'è il vento, e quindi anche su questo ci sono stati appunto dei finanziamenti che sono stati dati a pioggia in un modo non eccessivamente razionale, diciamo. Però diciamo che questa è la prima risposta: noi siamo indietro e quindi è chiaro che dobbiamo fare più degli altri, perché abbiamo anche qui fatto una politica relativamente miope e non abbiamo investito per rispettare i nostri obblighi che già esistono. In secondo luogo, l'esempio proprio tedesco e spagnolo dimostra chiaramente che l'investimento in efficienza e in rinnovabili porta lavoro non delocalizzabile, perché è chiaro che tra l'altro ci sono da 250 e 350 mila posti di lavoro che sono stati creati in brevissimo tempo, e è evidente che se io faccio degli impianti per le case, per l'edilizia pubblica, per le strade, che risparmiano fortemente energia, trasformano il tipo di dipendenza energetica che noi abbiamo, io non dovrò andare da nessuna parte, dovrò stare lì, dovrò creare delle nuove professionalità, creare dei nuovi, appunto, dei nuovi lavori che non possono essere delocalizzati. E idem per quanto riguarda le energie rinnovabili. È evidente però che coloro che premono e che dicono ah io delocalizzo, in realtà sono dei settori, rappresentano dei settori degli interessi diversi rispetto a quelli nuovi e a quelli innovativi, quindi questo è un pochino il problema. In terzo luogo, non credo che ci siano dei dubbi. Il punto che, come dicevo prima, l'obiettivo è quello di portare anche altri stati su queste posizioni, di fare una impresa globale contro i cambiamenti climatici. Però se non comincia l'Europa non ci arriveremo. Quindi per queste tre ragioni credo che la perdita di competitività l'avremo se non facciamo niente. Io volevo citare alcuni dati di Legambiente che sono stati pubblicati recentemente proprio su quello che l'onorevole ci ha appena detto, che sono le ricadute positive di quello che potrebbe essere l'azione dell'agenda 2020, cioè il fatto che l'Italia, per esempio, potrebbe avere un risparmio di 7,6 miliardi l'anno per quanto riguarda il taglio delle importazioni di idrocarburi e di 0,9 miliardi di euro nei costi per contrastare l'inquinamento. Dunque, in sostanza, si parlerebbe di un guadagno netto di ben 600 milioni di euro l'anno. Dunque, onorevole, secondo lei sono stime adeguate? Sono sicuramente dei numeri che sono perfettamente raggiungibili, ce ne sono anche tanti altri. Per esempio, se noi facessimo un'opera di, se noi cambiassimo tutte le lampadine dell'illuminazione pubblica, risparmieremmo il 70% di quello che si spende appunto per l'illuminazione pubblica. Quindi, insomma, di esempi virtuosi ce ne sono molti. Il punto è che nella guerra dei numeri dobbiamo assolutamente rispondere colpo su colpo, come appunto ha fatto Legambiente, come molte associazioni, anche noi al Parlamento Europeo, non solamente noi Verdi ma anche altre forze politiche hanno fatto, a tutti quei numeri appunto che cercano di dimostrare il contrario, che sono spesso basati sul nulla. Io penso che la cosa ideale sia appunto quella di presentare delle stime che sono realistiche, che si basano sul fatto che il settore delle rinnovabili, per esempio rispetto al settore nucleare, è cresciuto in un modo veramente incredibile negli ultimissimi anni, e questo dimostra chiaramente che c'è un potenziale che probabilmente ancora non è nemmeno calcolato, ma perfino stando prudenti questa crescita è sicuramente importante. Paolo, secondo te, visto che appunto si è parlato adesso di nucleare, quale potrebbe essere il potenziale dell'energia nucleare in tutto questo discorso? Dunque, il potenziale è a lungo termine, ovviamente. Noi abbiamo un grosso problema, che gli idrocarburi, il gas, il petrolio finiranno, non c'è nessuna possibilità che continuiamo a utilizzare gas e petrolio, finiranno metà del secolo, fine del secolo, ma è una legge, ahimè, della natura. Le altre fonti di energia, che sono oggi il carbone, sono estremamente inquinanti, quindi da prendere in considerazione con molta con le pinze. Ovviamente le rinnovabili, assolutamente sì, le rinnovabili avranno e devono avere un posto nel mix energetico, ma è chiaro che è abbastanza, non si può pensare che siano la panacea, la soluzione finale. È chiaro, le rinnovabili avranno una percentuale che può variare, il 15-20% sul mix energetico totale, ma non possiamo pensare che delle energie che sono intermittenti e che sono diluite, c'è poco da fare anche lì come ingegnere, un kilowatt per metro quadrato dell'energia solare, il sole riscalda con una certa intensità, con una certa frequenza in certi luoghi. L'energia eolica la catturiamo solamente se abbiamo dei venti che vanno dai circa 7 metri per secondo, al di là non si può. Quindi chi potrà supplire il giorno in cui, nel momento in cui non ci saranno più altre forme, gli idrocarburi sono finiti, che fra l'altro sono molto inquinanti, è la soluzione è ovviamente l'energia nucleare. Nucleare che è un'energia sostenibile, perché è un'energia a lungo termine, perché abbiamo combustibile per centinaia e centinaia di anni e poi saranno sostituiti da altri tipi di forme di energia, ma lì ci avventuriamo all'energia di fusione, eccetera. Quindi è chiaro che non è, per costruire le centrali nucleari ci vuole tempo, purtroppo noi siamo indietro, noi italiani siamo indietro, la Francia ha il 70% della propria energia elettrica prodotta con centrali nucleari, mentre noi in Italia nell'87 ci siamo fermati e quindi dobbiamo recuperare il tempo perso. Noi siamo convinti che, e credo che scientificamente tutti siano convinti, la maggior parte siano convinti che solo un mix energetico effettivamente è la soluzione futura. Nel giorno in cui non ci saranno più idrocarburi, le nostre macchine, i nostri dovranno andare a elettricità. Già per fortuna si cominciano a fare macchine a doppio uso elettrico appunto e a benzina, e il giorno in cui non c'è la benzina saranno elettrica, ma l'elettricità ahimè non è un'energia naturale, deve essere prodotta, ed essere prodotta deve essere prodotta tanta, perché abbiamo bisogno di energia, per noi, per le nostre case, per le nostre industrie, abbiamo bisogno di energia per muoverci, l'energia è la forza vitale. Quindi ben venga ovviamente le energie rinnovabili, ma a quella percentuale a cui saranno ahimè limitate. Enrico, vuoi fare una domanda? Ma io ho una domanda per l'ingegner Gaio, mi sembra insomma un nuclearista da quello che sento. Ingegnere, ma delle scorie, che ne facciamo? C'è ricerca? Non vuole essere una domanda, non voglio no, essere No, per polemico, carità, ma per carità ma sono... C'è la ricerca, sta cercando di trovare delle soluzioni per la ricerca, direi che continua, e le scorie, il problema delle scorie è un problema effettivamente che oggi potrebbe sembrare insormontabile, perché non abbiamo ancora pensato, o la gente non sa ancora, che c'è una quarta generazione di centrali in cui la maggior parte delle scorie saranno bruciate, parlo di plutonio altrimenti rasoranici, saranno bruciate, non solo non saranno più scorie, ma serviranno a produrre energia. Se le vere scorie, quando avremo bruciato appunto in centrali di quarta generazione il plutonio e gli elementi rasuranici per produrre energia, quindi aumentando anche la disponibilità di combustibile, perché quello che oggi è considerato scorie sarà invece combustibile, avrà una vita media che è su 250-300 anni, e soprattutto un volume molto limitato. Le vere scorie delle centrali nucleari che sono in funzione oggi, che saranno in funzione fino al 2050, saranno un cubo di 100 metri di lato. Non direi che è un problema insormontabile isolare dall'ambiente un cubo di questo, ci sono tecnologie ovviamente che vengono utilizzate, i geologi ci hanno già dimostrato come si possono. Quindi, se ho capito bene, tutta l'energia nucleare che sarà prodotta da oggi al 2050 può essere recintata in un cubo di 100 metri quadrati di lato. Esattamente, e 100 metri di lato, sì. Quindi Paolo, sto dicendo bene, non vorrei che ci fosse confusione, parlando ovviamente della nuova generazione. Della generazione. Altro che Alessandra parlava dell'inizio della mia carriera di ingegnere. Non hai potuto finire. Io ho cominciato a lavorare negli Stati Uniti al Enrico Fermi Fast Breeder Reactor vicino a Detroit, che era un reattore di quarta generazione che poi è stato abbandonato per ragioni, perché ancora ahimè c'erano quelli di seconda che dovevano essere utilizzati, sfruttati, quindi costava troppo eccetera, ma esistevano già i reattori di quarta generazione. Non è un sogno, non è un dream, non è la fusione di cui ogni volta si dice fra vent'anni, poi io faccio l'università, dice fra vent'anni la fusione, poi sono cominciato a stare fra vent'anni, oggi si dice fra vent'anni, no, e quindi esistono, ci sono e supereranno questa mancanza. Per quanto riguarda l'Italia e l'obiettivo che appunto l'Italia dovrà raggiungere per quanto riguarda le energie rinnovabili, l'Italia deve passare da un 5,2% nel 2005 a un 17% nel 2020, secondo la proposta di direttiva dell'Unione Europea. Ecco, quale credete possa essere il mix energetico più appropriato per l'Italia? Su quali fonti di energie rinnovabili può investire il nostro Paese? Ma sicuramente non nel nucleare. Io francamente non so dove l'ingegnere abbia trovato i suoi dati, sono sicuramente dati diversi dai miei e quindi sarà interessantissimo confrontarli. Secondo l'Agenzia dell'Energia Nucleare l'uranio sarà sufficiente a un uso attuale, quindi con 439 centrali nucleari nel mondo dai 60 per 60 o 80 anni. Evidentemente se io ho parlato di plutonio. Ok, quello è un d'accordo, ma allora stiamo parlando di energie di centrali nucleari di quarta generazione. Ok, la centrale nucleare di quarta generazione sono annunciate dagli esperti, e io non sono un'esperta, per il 2040 o il 2050. E noi dobbiamo rispondere ai problemi dell'energia della nostra energia, insomma, dei cambiamenti climatici entro i prossimi 15 anni, anche qui non l'ho detto io, ma l'IPCC, che è questo organo delle Nazioni Unite che dice, insomma, che lavora rispetto, insomma, che ci ha dato, diciamo così, la prova definitiva che dobbiamo agire rapidamente. Insomma, e se non vogliamo, mi lascio finire. L'argomento è la casa brucia, non è che dobbiamo lasciarla bruciare perché dobbiamo cominciare a buttarci il fuoco, no? Io penso che, no, infatti il discorso è esattamente quello contrario, cioè noi dobbiamo cercare di capire quali sono le cose che possiamo fare rapidamente e gli investimenti che dobbiamo fare senza tardare. Nella mia valutazione, ma evidentemente io dico soltanto la mia opinione, il fatto di investire oggi su una tecnologia che non esisterà per i prossimi 40 anni e che per ora non ha risolto nessuno dei problemi che aveva 20 anni fa, perché anche qui le scorie di cui parla l'ingegnere sono delle scorie anche lì da venire. Oggi ce ne sono veramente molte in giro, perfino in Italia rappresentano un reale problema e un costo molto forte, e l'unico paese in Europa che ha cercato di lavorare alla creazione di un luogo di stoccaggio, che è la Finlandia, ancora non l'ha trovato, perché per fare un luogo di stoccaggio di scorie di alta radioattività è una cosa veramente molto complicata tecnicamente, altro che scanzano ionico. Quindi penso che il problema fondamentale, anche dal punto di vista della ricerca e dal punto di vista della sicurezza del settore nucleare, è un problema che esiste e che oggi ci permette di dire, ed è questa la mia maggiore preoccupazione, che o investiamo in energie rinnovabili e in efficienza energetica, arrivando ad un'uscita graduale dagli idrocarburi nei prossimi 10-15 anni, invertendo quindi la tendenza dei cambiamenti climatici e riducendo il riscaldamento entro i 2 gradi centigradi, oppure arriveremo in ritardo rispetto a questa sfida. Quindi io credo che i due tipi di investimenti sono, e lo dico, cioè, non è che mi fa piacere, è un dato di fatto, incompatibili, o perlomeno o si va da una parte o si va dall'altra. Peraltro devo dire che dal punto di vista dello sviluppo anche tecnologico delle varie energie, è vero che sia l'eolico che il solare oggi non sono ancora perfette, ma rispetto a come erano 5 anni fa la situazione è radicalmente mutata, perché la tecnologia, appunto, e l'investimento fa sì che la ricerca migliori tutto questo. Per il nucleare è stato così solo in parte, perché tutti i problemi di Chernobyl sono sostanzialmente stati un pochino migliorati, ma senz'altro non risolti. E quindi penso che, al di là delle questioni, diciamo così, esoteriche, ideologiche, eccetera, eccetera, il nostro problema è quello di scegliere su cosa è prioritario investire per ridurre la nostra dipendenza dal petrolio. E, perlomeno secondo il mio modo di vedere, bisogna investire in quelle tecnologie che sono realmente rinnovabili e in una riduzione radicale dei nostri consumi, cosa che con tecnologie attuali si può fare. E quindi penso che invece di spendere centinaia di miliardi in energie nucleari, perlomeno nel nostro paese, considerando anche il fatto che ci sono ancora 3 paesi importanti, la Germania, la Spagna e il Belgio, che hanno deciso di uscire dal nucleare entro i prossimi 20 o 30 anni e ancora non hanno ribaltato questa decisione, non lo so, magari lo faranno, però ancora non l'hanno fatto, credo che insomma sono delle cose sulle quali dobbiamo senz'altro riflettere, se non altro dal punto di vista della priorità dei soldi pubblici, dove mettere i soldi pubblici, ecco, questo è il punto. Mi preoccupa francamente l'affermazione che non bisogna pensare al nucleare perché solamente un discorso a breve termine. Appunto, l'errore è di fare un discorso a breve termine. Se continuiamo a fare discorsi a breve termine non arriveremo mai a risolvere i veri grandi problemi. Il grande problema, l'ha detto l'onorevole stesso, che il rinnovabile non è una panacea e sappiamo tutti che avrà un limitato, per carità importante, ma limitato, una limitata percentuale di utilizzazione. Qual è la soluzione? La soluzione non c'è al di là del nucleare, ahimè per chi non ci crede, non ci sono altre soluzioni. Quindi dire, non spendiamo, perché continuiamo a investire su una fonte di energia, la quale ci darà, sì, il 20%, ma il rimanente 80%. Veramente l'elemento bisogno di energia per i trasporti, per l'industria, da qualche parte dovrà venire. Quindi se non facciamo adesso gli investimenti, se non facciamo adesso la ricerca sul nucleare, lì mi fermo perché diventa un po'. Io vorrei, c'erano un paio di affermazioni. Primo sulla durata delle fonti del combustibile nucleare. Un discorso che ho già fatto qui a Radio Alma, l'uranio è di due tipi, è il 235 e il 238. Oggi usiamo unicamente il 235, che in natura è lo 0,3%. Il rimanente 238, una volta in centrale, si trasforma in plutonio. Questo plutonio diventa un combustibile lui stesso. Oggi è considerato un rifiuto, addirittura ha una vita lunghissima, perché il plutonio è su un tempo di cadimento di migliaia di anni, ma d'altra parte l'arsenico e il cianuro c'è un decadimento che è miliardi di anni, anzi ed eterno, e nessuno se ne preoccupa, fra l'altro, per inciso, non so perché. Comunque questo plutonio è adesso considerato rifiuto, ma non sarà considerato rifiuto quando questi elementi di combustibile verranno, che oggi sono in piscine di centrali o sono stoccati in luoghi in cui non hanno problemi, il plutonio verrà separato e diventerà un combustibile da essere usato nella quarta generazione di centrali. Cosa che è stata provata, cosa che non ha bisogno di essere dimostrata, deve solo tecnologicamente avanzata, ripeto, esistevano già nel 1970. Quindi quello delle scorie, quello della durata e quello soprattutto del bisogno a lungo termine. È chiaro che non riusciamo a risolvere il problema di Kyoto del 2020 con le centrali nucleari, perché siamo partiti, ahimè, con 20-30 anni di ritardo, perché adesso solo adesso ci accorgiamo, cosa succede? Non c'è più petrolio, non c'è più petrolio, aumenta il prezzo, il gas non c'è più, cosa facciamo? Gli studi, quello che si potrà avanzare tecnologicamente, di rinnovabili, per carità deve essere avanzato, ma ci sono delle limitazioni fisiche, delle limitazioni che la natura ci ha dato, che sono quello che l'irraggiamento solare è un tot di kilowatt per metro quadro, che il vento è utilizzabile solamente a 7 metri al secondo, e lì non c'è niente da fare. Possiamo tecnologicamente trovare degli altri sistemi più sofisticati, ma sono limitazioni fisiche. Paolo, quali le prospettive ora in Italia per il nucleare? Il nuovo governo è partito molto velocemente, e questo mi costringe a lavorare moltissimo, è partito molto, molto velocemente, stanno cercando di recuperare il tempo perduto. Spero che non lo facciano con fretta e quindi non facciano cose pasticciate. Questo è il mio timore, essendo vissuto tanti anni all'estero, è un po' il timore di quello che possa succedere in Italia. C'è una legge nucleare che è stata presentata, che il Parlamento sta discutendo e dovrebbe essere approvata entro la fine dell'anno. Hanno creato devono creare un'agenzia di sicurezza che dovrebbe essere in funzione all'inizio del prossimo anno, anche questa. C'è da fare, siamo rimasti indietro, le università hanno sfornato pochi ingegneri nucleari, siamo rimasti indietro nella ricerca, abbiamo fatto anche le cose un po' in maniera confusa. Per carità, io non ho lavorato in Italia, ho lavorato per l'Italia per molti anni, quindi me ne rendo conto solo adesso. Però c'è una grossa ancora capacità industriale. Io ero la settimana scorsa a Milano, le quattro centrali cinesi, le quattro centrali che noi stiamo in questo momento costruendo in Cina, hanno i componenti principali che sono la tubazione del reattore fabbricate da una società che si chiama IBF, che è di Piacenza, una meraviglia tecnologica. Quindi c'è la tecnologia, c'è la voglia, c'è la capacità. Onorevole Frassoni voleva intervenire. No, io volevo dire un paio di cose, credo che ci sia un malinteso di fondo, e cioè sembra che il nucleare riuscirà a risolvere l'80% dei nostri fabbisogno. Questo non è vero. Perfino il ministro Scajola parla di una percentuale che va dal 10 al 15%. Oggi l'energia nucleare fornisce a livello globale meno dell'idroelettrico, quindi che sarebbero intorno al 17%. Quindi, voglio dire, è evidente che qui stiamo parlando di numeri, diciamo così, un pochino fondati sul sogno, che è assolutamente legittimo, anche io ho il mio, quindi è chiaro che una persona può tranquillamente sognare che nel 2060 avremo il mondo cosparso di centrali nucleari. Io credo che il punto importante è che noi dobbiamo agire per la riduzione delle emissioni e per la riduzione della nostra dipendenza dal petrolio entro i prossimi 15 anni. Per questo il nucleare non serve, né nel nostro paese né a livello europeo. E per di più voglio aggiungere che comunque dal punto di vista degli investimenti, e questo che mi dispera dell'Italia, non è vero che investire nel nucleare permette anche di investire nelle rinnovabili, perché non dobbiamo illuderci purtroppo. I soldi li deve mettere lo Stato. Perché dal punto di vista delle garanzie e dal punto di vista di tutte le sovvenzioni che vengono intorno, perché è dimostrato che in Finlandia, dove si sta costruendo una nuova centrale nucleare che è già in ritardo di 2 anni ed è aumentata del doppio per quanto riguarda i suoi costi, il caso lo dimostra veramente molto chiaramente, non c'è nessuna azienda privata che agisce senza dei fortissimi investimenti pubblici. Quindi le due cose sono in totale rotta di collisione. Quindi io penso che noi non possiamo farci un'illusione di dire non risolviamo nulla fino al 2040, poi però avremo un'energia perfetta. Io spero che ci sarà questa energia perfetta, ma purtroppo nel frattempo noi dobbiamo assolutamente agire adesso. E quindi dal punto di vista soprattutto dell'Italia, che è un paese che è uscito dal nucleare, credo che le pochissimi soldi pubblici dovrebbero essere spesi in un altro modo, anche perché anche qui non stiamo parlando dell'80% del nostro fabbisogno, stiamo parlando del 10-15% per la missione stessa del nostro ministro. Onorevole, mi ha risposto a una domanda: quanto pensa che le energie rinnovabili possano, e non mi parli di 10 anni o 20 anni, perché se continuiamo a parlare in questi termini, risolvere il problema oggi e rimandarlo a domani, non riusciremo mai ad andare da nessuna parte. Quanto pensa che le energie rinnovabili possano contribuire al fabbisogno totale energetico, e da che cosa lei pensa a lungo termine, non pensi fra 5 anni, 10 anni, lo so che i politici pensano a 5 anni, 10 anni, cerchiamo di porci una scala molto più lunga, cosa pensa che rimanente fa bisogno di energia, da che cosa sarà coperto? Credo che ci sia un consenso che le energie rinnovabili potranno fornire il 20% di fabbisogno energetico, forse il 30%. Da che cosa a lungo termine sarà fornito il rimanente 70-80%? Fermo restando che siamo d'accordo sul fatto che non esiste la panacea, ma esistono diversi tipi definizioni di mix energetico, noi dobbiamo porci dal punto di vista del fatto che lo sviluppo tecnologico delle energie rinnovabili negli ultimi anni ci permette tranquillamente di dire, secondo gli studi di Greenpeace e di altre organizzazioni, e non solo organizzazioni non governative, che facilmente, se si investe in modo decente, possiamo tranquillamente pensare al 30-40%. Per di più, insisto, la questione non è quella di uscire completamente dagli idrocarburi nel giro dei prossimi 10 o 20 anni, ma nel giro dei prossimi 50, 60, 70 anni, dove obiettivamente io non credo di esserci più, ma comunque spero di arrivare con un mondo decente, no, con un mondo decente dal punto di vista pulizia. Quindi questo è il primo tema. Il secondo tema è quello appunto dell'efficienza energetica, e la terza questione è quella che obiettivamente tra petrolio e nucleare non c'è, io non mando le macchine col nucleare, quindi no, le manda con elettricità, appunto, che è fornita centrali nucleari. Lei non mi ha risposto. Io ho risposto alla sua domanda, no, stiamo parlando di 30-40%. Benissimo, cosa farà il rimanente 70%? Da cosa verrà? Ricordando che oggi come oggi, dal punto di vista dell'energia finale, il nucleare copre soltanto il 6%, io dico che quando avremo una copertura del 30-40% di energie rinnovabili, del 20-25% di efficienza energetica, noi dobbiamo prepararci un'uscita dolce da gas e petrolio, che però potrà durare molti decenni. Questa è la mia risposta. Dopodiché è evidente che ci sono degli stati che continueranno a utilizzare il nucleare, ma continueranno ad utilizzare il nucleare, ovviamente a loro rischio e pericolo, e utilizzando per questo delle risorse che non possono essere spese per migliorare la questione della nostra dipendenza. Peraltro io dico che una delle cose più eccitanti e veramente, veramente interessanti da approfondire è tutto il tema delle nuove centrali solari che dovrebbero essere sviluppate nel deserto del Sahara, quelle che già ci sono a Siviglia. Queste sono delle frontiere di ricerca veramente rinnovabili, veramente eccitanti, e so che agli uomini in generale piace molto l'idea della grande centralona. Io penso che anche questa può essere una frontiera importante, interessante, di grande ricerca, se uno non vuole limitarsi al piccolo impianto eolico, al piccolo impianto solare. Alessandra, ci sei ancora? Sì, sì. Volevi fare una domanda? Sì, volevo chiedere a Paolo, lui ci ha esposto il programma del governo per il ritorno al nucleare. Lui stesso prima, all'inizio della trasmissione, citava il referendum dell'87, dunque nel novembre dell'87 il 71% degli italiani dissero no al nucleare. Dunque volevo chiedere, secondo te Paolo, l'opinione pubblica italiana è pronta a un rientro del nucleare? Io credo di sì, però non ho le statistiche. So per esempio di quella statunitense che adesso è al 74% pro nucleare. Mi sembra che ci sia, ripeto, non ci sia nessun'altra soluzione. Credo che l'opinione pubblica sia molto più intelligente di quanto noi pensiamo, che si renda conto che non possiamo continuare a sognare su delle energie che chissà a lungo termine ci potranno dare solamente una quantità limitata di energia, e rinunciare ad un'energia che è sicura a questo punto, perché che se ne dica dopo Chernobyl, e Chernobyl è stato un caso molto speciale, e non apriamo il caso di Chernobyl, un caso molto speciale di una tecnologia ahimè mal utilizzata, come se non credessimo nell'aviazione perché qualcuno guida un aereo senza sistemi di sicurezza e con dei sistemi vecchi e non qualificati. Dicevo, tranne Chernobyl non c'è stato nessun incidente che ha portato danni alle persone. Per cui è sicura, credo che ho già risposto il problema delle scorie. Dal punto di vista costi, è ancora il nucleare è ancora meno caro di tutte le altre forme di energie, e quindi direi che la gente a questo punto sceglie in maniera razionale, non è molto difficile la scelta. Siamo quasi in chiusura, io ho ancora una domanda per l'onorevole Frassoni. So che Enrico ha una domanda in relazione anche alla crisi finanziaria di quest'ultimo periodo. La mia domanda è la seguente: Barack Obama è stato eletto Presidente degli Stati Uniti. Onorevole Frassoni, quali crede ora possono essere le speranze per arrivare ad un trattato globale post-Kyoto sui gas serra? Ma gli obiettivi che sono stati descritti dal presidente eletto Obama sono degli obiettivi che sono praticamente più ambiziosi di quelli del 2020-2020. Quindi credo che questo sia un segnale estremamente positivo. Dove ancora non sappiamo quale sarà la decisione del nuovo governo statunitense è sulla volontà di impegnarsi in un trattato internazionale. Credo che se le cose devono essere razionali ci sarà una scelta per partecipare in un modo assolutamente potente fronte alla soluzione o perlomeno al governo dei cambiamenti climatici, anche perché gli Stati Uniti hanno deciso, eleggendo Barack Obama, di andare nella direzione di non continuare a negare che il problema dei cambiamenti climatici c'è. Devo anche dire che dal punto di vista della liberazione di energia positiva, l'elezione di Barack Obama è stata veramente una scossa per tutti noi e quindi credo e spero che anche dal punto di vista della capacità della comunità internazionale di agire insieme su questa grande sfida e tante altre, anche questo sarà un segnale positivo. No, io volevo fare un collegamento tra la crisi finanziaria e la crisi climatica. Che cosa è più importante oggi? Salvare l'economia o salvare il pianeta? Ma io penso che le due cose devono assolutamente andare insieme, peraltro questo cioè il fatto che adesso siamo in crisi finanziaria e quindi non si può più occuparsi della crisi ecologica sia esattamente un mezzuccio da parte di coloro che in realtà non credono, e questo credo che sia il problema dell'Italia in realtà, non credono che il problema dei cambiamenti climatici sia un problema reale, impellente e che debba essere affrontato e può essere molto facilmente smontato. È chiaro ed evidente che prima di tutto noi, per quanto riguarda in particolare il pacchetto energia, parliamo di misure da prendere dopo il 2012, quando speriamo di avere più o meno, non dico risolto, ma almeno affrontato questa crisi. E d'altra parte credo che la riconversione dell'intero sistema economico verso criteri di sostenibilità, quindi verso minore consumo, verso una maggiore possibilità di gestire in un modo sostenibile l'energia, cioè preservando il pianeta, sia anche una grande sfida di innovazione e di crescita economica. Quindi credo che le due cose non possono essere separate, anzi spero che questo rappresenti un impulso ancora più grande, ancora più forte per andare in quella direzione. Paolo, l'ultima battuta? Non ho battute da fare, sono un ottimista, quindi io credo che effettivamente sono ottimista sulle tecnologie, ottimista sulle capacità umane, ottimista sulle capacità dell'uomo di varcare frontiere e quindi sono ottimista sul futuro anche dell'energia, ma sono ottimista perché lavoro nell'industria nucleare, ci lavoro da 30 anni e so i progressi che l'industria nucleare ha fatto e quindi sono ottimista anche sull'utilizzazione di questa energia. Siamo quasi in chiusura, mancano un paio di minuti. Alessandra, tu hai un'ultima domanda? Enrico mi richiede la parola. No, ecco, io volevo sapere un po' da tutti, in 3 secondi, qual è il gesto quotidiano che voi fate per essere in linea con Kyoto e per migliorare l'efficienza energetica del pianeta? Cominciando dalla conduttrice. Sì. Se riesco risparmio energetico a casa, quindi diciamo spegnere le luci quando è possibile. Presidente Frassoni. Ho venduto la mia macchina. Anch'io. Ho venduto la mia macchina. Beh, io mi lavo i denti e chiudo l'acqua mentre certo, mi cose con lavoro con il direttore fa una doccia fredda al mattino. Per questo è raffreddato. Alessandra? Io cerco di stampare sempre sulle due parti della, alcune volte stampo anche 4 pagine sulla stessa, dunque avrò un problema di vista. Bene, cari radioascoltatori, siamo veramente in chiusura, un caloroso ringraziamento ai nostri ospiti di questa sera, l'onorevole Monica Frassoni. Grazie, del Parlamento, ciao. Europeo, Enrico Mayrhofer, corrispondente della radio australiana SBS, e l'ingegnere nucleare Paolo Gaio. Grazie, arrivederci. Grazie per essere stati con noi, un grazie a Roberto Giava in regia. Alessandra? Sì, Annalisa, ti saluto i nostri ospiti e ovviamente i nostri amici radioascoltatori. Alla prossima settimana. Ci risentiamo alla settimana prossima. Buona Ciao. Serata.